sono andato da questo mondo di falsità, di egoismo, di paura, di falsa civiltà. Tutti piangono. Tutti piangono, forse perché loro sono ancora là. Tutti piangono. Non ho più paura adesso di uscire tardi la sera, stare in casa da solo, di camminare per le strade, sono felice. Ma tutti piangono, ma perché sono andato via da un mondo che non lascia spazio a chi non è forte. Sono scappato via da orrori, da guerre, da morte, da malinconia. Mi manchi tu, mi manchi tu, mi manchi tanto tu. Mi manchi tu, mi manchi tu, mi manchi tanto tu. Dove sei? Cosa fai? Con chi sei? Con chi stai? Dove sei? Cosa fai? Con chi sei? Con chi stai? Con chi stai? Sono andato da questo mondo di avidità, di cinismo, di terrore, di dilagante mediocrità. Tutti piangono. Ah, tutti piangono. Forse perché loro sono ancora là. Tutti piangono. Ma perché sono andato via da un mondo che non lascia crescere chi non è forte? Sono scappato via da orrori, da guerre, da morte, da malinconia. Mi manchi tu, mi manchi tu, mi manchi tanto tu. Mi manchi tu, mi manchi tu, mi manchi tanto tu. Dove sei? Cosa fai? Con chi sei? Con chi stai? Dove sei? Cosa fai? Con chi sei? Con chi stai? Con chi stai? Tanto tu, mi manchi tu, mi manchi tu, mi manchi tanto tu. Dove sei? Cosa fai? Con chi sei? Con chi stai? Dove sei? Cosa fai? Con chi sei? Con chi stai? Con